vita. Chiedo tu cambi tutta la mia vita ora. Ti do questa notizia in conclusione. Notizia è l'anagramma del mio nome, vedi. E so che serve tempo, non lo nego. Anche se in fondo tempo non ce n'è, ma se cerco lo vedo. L'amore va veloce, tu stai indietro. Se cerchi, mi vedi. Il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. Ricevo il tuo contrordine speciale, nemico della logica morale, opposto della fisica normale, geometria degli angoli nascosti nostri. E adesso ripenso a quella foto insieme, decido che non ti avrei mai perduta, mai perduta, perché ti volevo troppo. Mi mancano i colpi al cuore, quel poco tanto di dolore, quell'attitudine di chi ricorda tutto. Ma se guardo lo vedo, il mondo va veloce, tu vai indietro. Sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. Dietro le lacrime che mi hai nascosto, negli spazi di un segreto opposto, resto fermo e ti aspetto. Da qui non mi è possibile non rivederti più. Se lontana non sei stata. Cerco, lo vedo, l'amore va veloce, tu stai indietro, se cerco.